Fulminati in azienda. Ciao cara, come stai? Bene oggi con queste sfumature di orzo maturo? Grazie Marta, sei sempre così cara. Hai bisogno di qualcosa? Sì, effettivamente sì, c'è un'emergenza. Cosa è successo? Dobbiamo assolutamente risolvere una situazione spinosa. Ma cosa? Nel pomeriggio arriva Svetlana, ti ricordi l'account della G-Point? Sì, della G-Point. Diciamo sì. Un'amica di sul pezzo? Sì, certamente. Che di solito se ne occupa in prima persona. Ecco, invece... da quando i cinesi si sono rifiutati di farsi comprare da Zot, Marco la trascura. Ma certo, immagino povero Marco con tutti i pensieri che ha in questo momento. Cosa possiamo fare per intrattenerla? Guarda, io ho pensato potrei organizzare una proiezione privata Grazie, ma scusa se mi sono permessa, ma io ho già prenotato la Mam Orchidea Selvaggia per noi tre ragazze del terzo millennio. No, ma oggi in orario di lavoro non è possibile, dobbiamo chiedere un permesso, compilare i moduli 357HZ. Mandare una mail al responsabile HR, cioè... Ma sei tu la responsabile HR? Allora dobbiamo chiedere sul pezzo. Ma Marco direbbe sicuramente di sì, lo sai come la pensa. Mensana in corpore sano. Peccato tanto che non neve qui Zot, perché in questa sauna io sentirei come madre russa, solo manca neve. Meglio così, perché abbiamo verificato che quando nevica il tasso di assenteismo aumenta statisticamente del 22%. Bianca, quindi non assilliamo la nostra ospite con questi discorsi di azienda così grigi, cerchiamo di godere di questo massaggio alle pietre vulcaniche islandesi. Rilassante molto per me, non capisco perché sul piezzo mai portare me in posti come questo, è sempre soliti motel uguali tutti, io rilassata molto, io nuova donna, sentire me qualunque cosa fare posso. Sì, sono certa che se anche i nostri colleghi provassero questi benefici della MAM supererebbero, diciamo, la delusione di questo mancato acquisto della società cinese. Non si parla d'altro. A proposito di cinesi, me pensava che se Maometto non va a montagna Maometto va. Ma perdonami, saranno i fumi di questa... Non ti ho capito, mi sfugge la metafora. Io sempre spiegare tutto, molto semplice. Se Zot non compra Zuzu, allora Zuzu compra Zot. Marco, scusa se ti disturbo, ma veramente forse ho la soluzione, mi è venuta un'idea. Oh, Marta, cosa c'è? Ti vedo scossa, agitata. Sì, sono emozionata. Cos'è successo? Hai presente se Maometto non va alla montagna deve andare da Maometto? Cosa c'entrano Maometto e le montagne? Non so di cosa parli, oh, è fonte, allora. Marco, seguimi, dobbiamo convincere i cinesi a comprarci. Immagina unire la loro straordinaria produttività alla nostra straordinaria creatività. Uè, Fon, ma secondo te sul pezzo non ci aveva già pensato? Immagina un logo fatto di mix di ideogrammi cinesi e numeri romani. E immagina Fon, immagina soprattutto quanti soldi potremmo fare. C'ho già in mente lo slogan dell'acquisizione e della vendita. Yes, we yen. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z 2o 1t